Italians. Italienne. Italianas. Italienische. Italianes. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. In New York. Fantastica. No, che bello. Che bello. Buon pomeriggio. Buonanotte. A me piaceva questa introduzione a Alicia Keys. Vai, ragazze. Paganini non ripeto. Visto che non sei Paganini, ripeti. In New York, concrete jungle my dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York. Bellissima, brava, brava, brava. Che rabbia, quanto vuoi cantare. Ma non so se è giusto, non so se sono giuste le parole. Quell'inglese un po' rivisto. Cantato tutte le canzoni in inglese da quando ero piccola con parole completamente inventate. Oh, my God. E continuo a farlo adesso. No, ma lo sai che adesso riesco a capire le parole delle canzoni dei Queen e le ho cantate per almeno 20 anni senza saperne il significato. E dico, ah, ecco. Ah, la canzone voleva dire questo. Ma pensa. Mi ha visto c'è anche una canzone in italiano. Dico, ah, voleva dire quello. Oggi parliamo di New York, la nostra Laura ce l'ha già anticipato con il suo pezzo fantastico. E quindi oggi avremo un ospite particolare, si chiama Alessandra. Sandra, particolare perché è partita a New York a 35 anni, per cui non giovanissima, con una carriera già in mano e ha rivoluzionato la sua vita in pochissimo tempo. Queste genovesi. Anche lei è un'altra del clan, dei genovesi. Sì. Siamo quasi pari genovesi triestini con l'intervista. Anche Milano, sì, diciamo. Sì, sì, anche milanesi devo dire che girano molto. Infatti tra i nostri fan più assidui c'è Milano, Trieste e Genova. Che caso? No, ma poi abbiamo una banda in Sudafrica, in un paese sperduto, Stellenbosch, ora abbiamo 7-8 fan. Stellenbosch. Spagnoli, perché vedo qualche spagnolo, sì, abbiamo, poi abbiamo due indiani. Torniamo a New York, cosa vi viene in mente New York? A me la danza. New York è tutto. New York è tutto, la danza, no, appunto, dico. L'architettura. Empire State Building. Esatto, il MoMA, il Museo d'Arte Contemporanea, famosissimo. Il Guggenheim, i taxi gialli, la metropolitana labirintica, come dice Laura, la vita. Tutto quello che succederà nel mondo nei prossimi anni probabilmente si vede adesso sulle strade di Manhattan. Parleremo anche di questo con Alessandra perché suo marito lavora in un negozio esclusivissimo a Manhattan, quindi conosce le fashion victim locali. Che victim! Quelle che vanno a comprare da lui, comunque. No, mi piacerebbe essere victim così, anche a me, no? Piacerebbe essere victim con i soldi, mi piacerebbe. Si può dire questo negozio o no? Un segreto? Credo che stampa. Lo accenni. Sì, dopo ce lo dirà Alessandra, perché tu purtroppo non sarai con noi. No. Perché noi abbiamo sentito Alessandra un po' tardi di sera, visto che il fuso orario con New York è piuttosto importante, noi ci troviamo in Europa, come sapete, quindi bisogna organizzare gli appuntamenti come si può. E la nostra Maddalena era impegnata. Maddalena è un architetto di successo, quindi sì. Era una convention a Parigi. Dimmi un po', tu sei mai stata a New York? No, penso. No, ma nessuna delle tre. Deluso, no. Ma siamo messe male comunque. C'è stato mezzo mondo. Sapete cosa possiamo fare? Sì. Quel famoso weekend. Sì. Magari lo allunghiamo. Sì. Lo facciamo a New York. Però ci stiamo sbilanciando. Siamo passate da Genova, Barcellona, poi metto Amsterdam, adesso New York. Anche le Seychelles c'è stato di mezzo. Io so che Ryanair lancerà presto dei biglietti a $15, a $20. Con New York? Sì, probabilmente in piedi, senza cinture, tenendo il portellone. Sì, dai, se può fare. Poi se siamo noi tre non ce ne accorgiamo neanche. E quindi andiamo a New York, andiamo a fare questa gita nella città che non dorme mai, nella grande mela, e chiediamo ad Alessandra come si vive. Ciao Alessandra! Ciao, ciao, piacere! Benvenuta Italiane con la valigia. Prima domanda di rito, chi sei, da dove vieni e come mai ti trovi a New York? Beh, mio nome è Alessandra, lo sapete già, vengo da Genova e mi sono trasferita negli Stati Uniti 5 anni fa. Ho deciso di cercare un programma di studio. Tu cosa facevi in Italia? Che cosa hai studiato? Che lavoro facevi? Avevo una laurea vecchio ordinamento in biologia, ne è stata poi riconosciuta qua come master. Quindi ancora meglio rispetto a quello che ti aspettavi. Esatto. Ho lavorato per quasi 8 anni prima di decidere di rimettermi in gioco e di ritornare sui libri. E a Genova quindi che lavoro facevi? All'inizio, appena laureata, di tutto, facevo 2 o 3 lavori. Poi ho iniziato a lavorare in un ufficio in cui mi occupavo di educazione medica continua. Tra l'altro io ero nella facoltà di biologia biologia 2 settimane fa perché si è laureata la fidanzata di mio fratello. Ah, ecco perché ti trovavi all'università. Sì. No, e quando le hanno detto appunto binomino dottori, è partita una battuta da dietro. E... quale? No, una battuta di un ragazzo che ha detto un futuro roseo in Italia. Vi auguro un futuro roseo lavorativo in Italia. Da una parte mi manca un po', diciamo, il sistema italiano, perché io in Italia ero dottore in scienze biologiche. Fino al livello di master non sei un dottore, devi fare il PhD. Sto rincorrendo quella parte lì. Ok, quindi stai cercando di ottenere tutti i documenti necessari per praticare il tuo lavoro anche negli Stati Uniti. Nel frattempo cosa fai? Studi e lavori o studi soltanto? Ho applicato quando appunto ero in Italia per un master. Sono stata presa appunto a San Diego e ho iniziato questo master a San Diego. Tua prima destinazione negli Stati Uniti, San Diego. San Diego, esatto. Quindi il tuo compagno ti ha seguito o...? Sì. Ci siamo sposati poco prima che io partissi per gli Stati Uniti, sono rimasta incinta quando sono stata presa per il master, quindi ho deciso di prendere tutto il pacchetto e è stata dura. Ti sei presa marito, università, figlio. Nuova vita, nuovo sistema completamente, a un'età di 35 anni che comunque non sono più 20. Sì, da 35 è molto facile qui trovare donne che cambiano completamente. Esatto, qua la stessa cosa perché ti danno l'opportunità, cosa che non hai in Italia, sei già vecchio dopo i 28. Se consideriamo anche insomma che le aspettative di salario non sono poi entusiasmanti, no. È chiaro che insomma davanti a una proposta come quella di un dottorato a San Diego la scelta è abbastanza semplice, no? Nonostante tutto. Ho applicato per i dottorati perché comunque sia il discorso visti non è facile, e la via più facile tra virgolette è entrare in un programma di studio. Ho applicato in diversi stati negli Stati Uniti e alla fine sono stata accettata nel New Jersey. Io all'università vado nel New Jersey. E tu abiti in città, New York City, oppure in periferia? No, la mia abitazione è sul lato del New Jersey, dell'Hudson. Mio marito lavora a Manhattan. Abbiamo scelto questo punto qua per la residenza perché se non altro stiamo in una via di mezzo. Quindi tu frequenti il campus insieme ai veri studenti americani? Sì, sì, io sono... Con le confraternite e tutto quanto, no? Ci lascio ai giovani, io ne ho già abbastanza, no. Ma volendo potresti? Probabilmente sì, hanno tutte queste associazioni strane che, guarda, è tutto completamente diverso dall'Italia, soprattutto il sistema scolastico. Ancora adesso cerco di capire, un bambino che andrà a scuola l'anno prossimo, ancora devo capire, sì, come funziona bene. Un po' di discriminazioni economiche forse a livello scolastico, sì, immagino. Ci sono situazioni di ogni genere, oltre a fare il dottorato insegno anche perché ho vinto praticamente una borsa di studio con loro, sono stata selezionata, mi pagano le tuition, mi pagano le fee e in più mi danno questo stipendio. Cosa insegni esattamente? Una delle due materie che insegno è capire il clima e il meteo, più che altro relazionata a quello che ho fatto io durante il mio master, quindi mi sono occupata di climate change. Quindi insomma raccontaci un po' a tuo marito che lavoro fa. Mio marito lavora in una boutique in Park Avenue. Fantastico, quindi se abbiamo bisogno di uno sconto sul nostro shopping è difficile potersi permettere qualcosa. Parliamo di Park Avenue, quindi sì, sì, abbiamo detto tutto, ma noi che siamo conoscitrici di Sex and the City abbiamo visto tutti gli episodi. Park Avenue come casa nostra, no? Come dire, andiamo, non so, a mercato. New York effettivamente mi sembra di conoscerla benissimo. Abbiamo vissuto tutti a New York. Ma anche tu hai avuto questa sensazione sbarcando nella Grande Mela, di conoscerla già da sempre? Per quello sì, però esserci diverso. Io non riesco ancora a realizzare, dopo così tanti anni negli Stati Uniti, che vivo qua. Sì. Che vivo, non sono qui solo da turista, capito? Anche sì, se sì, faccio ancora tante foto come un turista. Io ti capisco sì, un sì, sacco, sì. Perché io non sono stata tanto tempo come te, però ho vissuto una parte della mia vita a Vancouver e quando ero in downtown anche io avevo questa sensazione qui, facevo le foto e dicevo ma non è possibile che attraverso la strada c'è un set cinematografico. Cioè ti sembra veramente di essere in un film continuamente. Sì, tu puoi incontrare tranquillamente anche attori senza le loro guardie del corpo. Noi abbiamo i politici che seguite da 5.000 guardie del corpo, qua sì? Gli attori girano anche da soli. Io incredibile. Diciamo il paragone a raggi. Ti è capitato di incontrare degli attori per strada, di vedere delle scene di film che stavano girando, no? Attori no. Mi è capitato di vedere magari delle modelle. Addirittura c'era anche Joe Squillo quella volta che ha detto ma cosa ci fai te qua? Tra l'altro questa roba delle modelle io, delle amiche mi dicevano che è anche abbastanza frustrante, perché a volte sei magari in un negozio circondato da 5 donne di 2,20 metri. Sì, dipende anche però dalle tue tasche, insomma, se sei abbastanza ricco per permetterti la boutique, te ne freghi che c'è una stangona, no? Cioè, tu c'hai il portafoglio, quindi te ne freghi. Sì, vabbè. Tu puoi entrare tranquillamente anche in una boutique nella quale non ti potresti permettere di comprare assolutamente niente. E non ti guardano male, come invece non viene altrove. Tu sei liberissima di farlo. Quindi niente pregiudizio. Esatto. L'atteggiamento dei newyorkesi, insomma, rispetto agli stranieri, qual è? Io non ho mai incontrato forme di razzismo, almeno. L'unico razzismo che ho notato, cioè comunque il conflitto che ho notato, è tra East Coast e West Coast. E anche perché in California, insomma, c'è un altro stile di vita. Completamente. Hai notato questa differenza, insomma, tra i due stili di vita? Completamente. Differenze ce ne sono parecchie, e soprattutto le vedi nella vita di tutti i giorni. Vorrei un attimo ritornare sul discorso competitività. Si dice che se non stai al passo sei tagliato fuori, vieni emarginato dalla società perché c'è un livello di stress altissimo. Com'è vivere a questi livelli? Cioè, ogni tanto non ti viene da dire vorrei scendere dalla giostra, due minuti? Tagliato fuori nel senso che magari ti devi accontentare di qualcosa di meno. C'è gente che si rimette anche in gioco con lo studio anche a 50-60 anni, per dire, perché magari non è soddisfatta e vorrebbe guadagnare qualcosa di più. Qua ti danno la possibilità di avere comunque passare di livello. Per farlo ti rimbocchi le maniche. Uno può essere stressato in qualsiasi città, quello dipende comunque dalla tua personalità. Di sicuro cercare di stare al passo con gli altri può essere stressante, ma per me è uno stimolo ad andare avanti e fare sempre meglio. Allora, ti volevo chiedere una curiosità, a proposito di Little Italy, ci sei stata, com'è, ma ci sono gli italiani? Little Italy? Sì. C'ero stata anni fa quando ancora ero venuta da turista. Sì, tu giri e ti senti, magari, non so, senti parlare comunque in siciliano. Calabrese. Esatto. Esatto. Tra l'altro sì, è presente nei film tipo anche Donnie Brasco, sì, questi sì, film qua, che hanno questi vestiti marroni, i capelli tutti un po' anni 70. Sì, con questo gel e questi anellazzi grossi, ne vedi parecchi. Hai accennato prima di avere una cugina italiana, quindi immagino che avrai un gran sostegno, nel senso non ti sentirai da sola dall'altra parte del mondo. Ci siamo alla fine ritrovati, perché lei abitava a Londra, lei è un'altra ragazza che ha lasciato l'Italia, ha abitato, ha vissuto a Londra e poi ha conosciuto questo ragazzo dalla California e adesso si sposano a giugno. Il destino vuole che ci ritroviamo qua, ci mettiamo meno tempo a vederci adesso rispetto a quando eravamo a Genova. Incredibile, i casi della vita. È vero, è vero. Sì, nella propria città di origine si trovano mille cose da fare e poi manca il tempo per vedere la famiglia. Sì. Invece in un altro paese cambiano un po' le esigenze, le priorità. Cambia anche il modo forse di come vedi il parente, nel senso che probabilmente adesso fra di loro, mi immagino, sì, che si sia, cioè, ci sia molta più solidarietà, comunque molto più attaccamento, proprio perché state vivendo tutte e due un'esperienza, sì, di vita diversa. Sì, sì, sì, sì. Poi si cresce, comunque le priorità diventano altre, gioca a favore di un rapporto più solido. Le ragazze che ci stanno ascoltando, che sognano di venire per vivere la vita di Carrie Bradshaw, che cosa gli vuoi dire? Siamo stereotipate, mannaggia. Nel mio caso io posso solo dire, se avete un sogno cercate di realizzarlo con ogni mezzo, ma come mi ripeto, organizzatevela bene e non bruciarsi la carta, no, ecco, perché poi arrivare lì e poi perdere l'occasione è difficile riaverla, no, la carta, esatto, se, soprattutto se si viene qua bisogna pensare veramente di darsi parecchio da fare, parecchio, con uno scopo, con uno, sì, scopo vero sempre, e crearsi tutti i giorni dei piccoli traguardi che sono quello che ti permette di stare al passo e di avere soddisfazioni tue personali. Ti faccio l'ultima domanda da parte di Maddalena, che oggi non è potuta essere qui, e la sua domanda è un'istantanea di ciò che vedi in questo momento. Guardi fuori dalla finestra, cosa vedi? In questo momento vedo una bellissima giornata di sole che rispecchia, diciamo, il mio stato d'animo. Vedo tanto un roseo futuro che voglio dare a mio figlio. Sono venuta qua per dare un debba il futuro a mio figlio e sono contenta veramente. E siamo sicure che tuo figlio avrà veramente un roseo destino con una mamma grande. Come te. Mi hai dato una carica incredibile, io adoro le personalità come la tua. Grazie. Veramente sono... Sarai il suo guru, lo sai? Speriamo. No, anche io oggi condivido questo stato d'animo. Bene, mi fa piacere. L'importante è essere positivi. Sì. Grazie mille Alessandra per essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. E in bocca al lupo per tutto. In bocca al lupo davvero. Non faccio crepare il povero lupo, ma grazie. Grazie ancora. Ciao. Ciao a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Allora com'è stata ragazze? Raccontatemi qualcosa, cosa ha detto Alessandra? Alessandra ci ha dato una bellissima immagine, gli abbiamo fatto la domanda che ci hai chiesto di fare. Capo. Brave, brave. Okay, e lei ha risposto con una bellissima immagine di un futuro roseo per suo figlio. E non che può bello. Essere altrimenti, no? Lasciamo l'Italia anche per questo. Non è che si parte dicendo a monte tutto, l'Italia fa schifo, l'Italia... No, si fa anche con spirito di sacrificio. Io un giorno ero nella fermata dell'autobus a Vancouver ed era un momento in cui ero un po' depressa perché volevo tornare a casa, volevo tornare in Italia e questa signora mi si avvicina, portoghese, e mi dice: perché piangi? Sa, mi manca un po' il mio paese. Lei mi guarda e mi dice: cara mia, ce n'hai da piangere. Io ho pianto 10 anni. E ricordatevi che siamo sempre stranieri. Basta attraversare una frontiera e lo siamo tutti. Però c'è Italiani con la valigia che ci unisce. Ma è un po' lo spirito, no? Quello di unirci. Comunque unirci nella nostra cultura, nella nostra lingua, nelle nostre esperienze. Partecipate perché... A noi interessa sapere la vostra storia, parlarne con voi, ascoltarci, riascoltarci e anche mantenere viva un po' la nostra lingua. Perché quando si vive all'estero spesso qualche cosa si dimentica. No? E a me è successo. A parlare male come no, no, però succede di integrare delle parole della lingua d'adozione. No, quindi certe ci cose vanno per forza, per quanto uno possa parlare bene un'altra lingua. La lingua madre è... Non si scorda mai. La lingua madre non si scorda mai. La lingua madre manca perché ci sono delle sfumature che non potranno mai essere espresse diversamente che nella tua lingua. No? E insomma, noi adesso dobbiamo salutarvi. Siamo arrivati al capolinea per questa settimana, però siamo aperte a tutte le vostre storie, abbiamo un sito internet www.italianecolavaligia.com. Mi sembri un po' come il maestro Rovetti alle elementari. Ma chi è? Cioè adesso ci parla dei cazzi suoni, adesso ci parla del maestro. No, quando la maestra non c'era ci univano tutti quanti in una classe alle elementari e ci faceva la gara delle tabelline, no? Quando ti vedo, quando anche mi guardi come per dire ora devi dire qualcosa, io immagino Rovetti. Grazie. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte, alla prossima settimana. Ciao ragazze, ciao, a presto.